Ritorniamo in onda come tutti i martedì con Sono Solo Nuvolette. Io sono sempre Fulvio Gatti, Fulvio The Cat su Twitter. E oggi, in questa pseudo estate, perché abbiamo notato poco fa con Filippo in regia che sembrava che facesse più caldo in questo studio pian piano, poi ha smesso, perché oramai le stagioni non si va verso meglio, ogni tanto smettono. Speriamo che ci sia l'estate prima o poi. E qui addirittura da Ro-Milano o Milano. Ormai Roma e Milano sono la stessa cosa. Ok, quindi da Milano. Diciamo da Milano. Ho fatto varcare il confine storico Torino-Milano a un amico scrittore e sceneggiatore, o sceneggiatore e scrittore, che è Adriano Barone. Ciao, un saluto a tutti. Adriano Barone, sceneggiatore per il mercato indipendente, quindi Tunue, comunque della graphic novel, Tunue 001 BD, con vari progetti anche in ambito cinematografico e anche qualcosa per il fumetto mainstream di cui possiamo dire e non dire. Possiamo dire che ho già consegnato una prima, due sceneggiature in Bonelli, ne devo scrivere altre due, però non si dice né la data d'uscita né la testata di riferimento. Ok, comunque Sergio Bonelli editore, che sì. Come ha imparato chi segue questa trasmissione, è un po' la Marvel del mercato italiano, quantomeno la principale. O la DC. Giustamente, in un'ottica di classificazione la DC è un po' più all'antica, quindi la Bonelli potrebbe essere... No, l'ho detto io, non ti preoccupare, non ti spaventare. All'antica, non so come dire, un po' più sabauda, perché poi anche l'altro scherzo era quello, anche se di Milano, via Buonarroti, però c'è tutta un'immagine di sobrietà, non lo so, sto dicendo cazzate. Adriano, tu ti senti più sceneggiatore o scrittore? Ma mi sa più sceneggiatore, cioè all'inizio ero un po' indeciso, nel senso che, come si vede anche da quello che ho pubblicato, non si capiva bene dove volevo andare a parare. Prima due graphic novel, poi una raccolta di racconti e romanzo, poi una graphic novel e un romanzo, insomma, poi, come dire, percorsi personali, il caso, che ovviamente ha sempre una grande influenza, mi hanno portato ad occuparmi di più di sceneggiatura e devo dire la verità, mi diverto di più. La sceneggiatura è divertente perché ha un aspetto collaborativo, anche se solo con un disegnatore, ok, se lavori su qualcosa di un po' più complesso, che possa essere anche un cortometraggio, un documentario, altri progetti, lavorare in team è più divertente, se il team è valido, chiaramente. Quindi tu non ti senti un narratore puro con delle storie da raccontare e basta, trai anche spunto dalla collaborazione, in questo caso col disegnatore o anche con una realtà esterna che può essere la casa editrice, l'editor? Bah sì, diciamo che, vabbè, so di dire una banalità, comunque se collabori con una certa casa editrice che ha una certa linea editoriale, ovviamente puoi proporre delle cose, non puoi proporne altre. Questa è una questione di mercato che abbiamo, esatto, provato a chiarire con queste puntate. Per quanto riguarda il disegnatore, assolutamente sì, cioè a volte mi è capitato di avere nel cassetto delle storie che poi sono state pubblicate, ma che in base poi al disegnatore che veniva scelto per il progetto sono state ampiamente riscritte per, come dire, andare incontro ai punti di forza del disegnatore stesso. Cioè non mi è mai capitato di tenere un progetto così com'era quando è stato scritto, come dire, uno spec, quando ancora non sapevo chi l'avrebbe disegnato, e di mantenerlo uguale dopo aver visto i disegni. Cioè c'è sempre un lavoro che viene fatto per andare incontro ai punti di forza del disegnatore, assolutamente. Sei convinto, come sono convinto io, che alla fine il fumetto vero e proprio, il graphic novel, se vogliamo fare i fighi, ma di fumetto parliamo, lo fa il disegnatore più ancora che lo sceneggiatore? Dipende, nel senso che comunque è chiaro che se parliamo di graphic novel, l'identità grafica che viene data è ovviamente fondamentale. Devo anche dire che leggo molte graphic novel in cui la parte di drammaturgica è talmente povera che io penso che una collaborazione con uno sceneggiatore forse sarebbe opportuna. Poi ovviamente intervengono i gusti personali. Io personalmente a leggere resoconti autobiografici intimisti mi faccio un po' un frullato di balle, però suppongo che a una certa fascia di pubblico possa piacere, insomma. Mettiamola così, il fumetto, essendo una narrazione per immagini, a volte, e non per niente poi gli americani si sono inventati al contrario il plot driven o il fumetto writing driven, cioè in cui la scrittura ha una parte preponderante, però ci sono state storie a fumetti, ci sono ancora, in cui magari un bellissimo disegno suggestivo magari prescinde un pochino dalla coerenza della storia, dalla ricchezza di dettagli secondari, al di sotto della superficie della puro piacere della fruizione narrativa grafica. Non sto parlando in realtà, tu hai parlato del graphic novel che è ancora qualcos'altro, perché c'è più un discorso di interiorità. In questo caso magari certo fumetto francese, certo fumetto anche di fantascienza, certo fumetto americano, se stai a vedere. Ma anche il fumetto americano sul discorso di ce la posso fare, dinamicità. Meno male che ho fatto il cretino per 5 minuti facendo gli esercizi. vabbè, ce la posso fare. Il mercato americano, il mercato francese, comunque storie a fumetti in cui magari il disegno o lo storytelling visuale prevale sulla scrittura. Sì, ma infatti ci sta, cioè nel senso la mia non era una accusa, chiamiamola così, un parolone rivolto all'intero comparto grafico delle graphic novel, semplicemente appunto quelle in particolare più biografiche intimiste le trovo poco interessanti. Poi appunto è chiaro che una suggestione visiva è quello che può dare un'identità all'intero fumetto, e l'intero fumetto può reggersi anche su quello, anche se poi quello che viene raccontato a livello appunto drammaturgico non è così spesso, però non importa, cioè nel senso il fumetto da anche... anni con il fumetto, qual sì. è secondo te il frainteso più grande del grande pubblico nei confronti della narrazione per immagine, nei confronti del fumetto? Ma che debba costare poco? Ecco, questo apre, che secondo questo apre me degli scenari pazzeschi. C'è un problema secondo me pazzesco, per cui quando vedi che c'è un fumetto che può costare più di una certa cifra e ti viene detto ma costa troppo, quindi secondo me c'è proprio un problema di percezione del mezzo che viene considerato povero a prescindere. Credo che il termine graphic novel, per quanto non mi piaccia, abbia avuto quantomeno il merito di far sembrare il fumetto merce preziosa, cioè vale la pena di pagarlo una cifra che sia superiore al fumetto d'edicola, quindi almeno quello. Però tendenzialmente c'è un problema di questo tipo, in edicola sicuramente, invece a livello di varia no, cioè ormai il fumetto, appunto la graphic novel o comunque romanzo a fumetti è considerato un romanzo, quindi con il suo prezzo, come dire, giusto da prodotto da libreria. Però appunto chi si avvicina per certi per la prima volta o comunque ancora dal canale edicola ha l'idea che costi troppo, anche quando in realtà paragonato ad altri come dire, strumenti di entertainment o altri oggetti di vita quotidiana, in realtà è ancora molto economico. Abbiamo sentito solo poco fa qualcuno che ha definito, chiacchierando con un edicolante, 3,50€ troppo caro un albo. Addirittura diceva che era caro un euro per il primo volume di Blueberry, okay, che è stato rieditato. Questo ora è questo è problematico, meno di un euro sinceramente forse dovremmo regalarli, però a quel punto voglio dire vedo a quel poco punto lo lì scopo non hanno economico. Nessun valore. Cioè, no, a quel punto lì non hanno nessun valore, questo è... Sì, appunto, quindi è abbastanza, questo è abbastanza inquietante, però come dire... Voglio essere ottimista e pensare che la persona di cui abbiamo parlato o appunto chi ha questa percezione sia una minoranza e che sia sempre più in via d'estinzione. Ma sì, magari fosse una battuta, non fosse qualcosa di supportato da una vera opinione, fosse una come una condivisione di un link populista su Facebook, cose che succedono, no? Oramai la gente prima condivide e poi accende il cervello, vabbè. E però se per caso invece bazzicate da quelle parti, visto che costa poco, cliccate mi piace solo non volete, giusto? Tanto per darmi una soddisfazione morale anche. Automarchio di infamia, perché in questo momento ho criticato, com'è che ha detto Umberto Eco, che la maggior parte della rete è composta di imbecilli? Che la rete ha dato voce agli imbecilli? Esatto. E che prima le chiacchiere rimanevano nei bar, adesso rimangono scritte. E lo sì. Vogliamo dire che è una chiacchiera da bar anche quella che ha detto Eco? Sì, però appunto non, come dire, secondo me siamo tutti molto agitati, cioè io fondamentalmente me ne fregherei di gran parte di quello che viene detto online, cioè nel senso ci vuole comunque un criterio personale di selezione di ciò che è importante o meno, quindi chi se ne frega, cioè voglio dire, tanto Eco, voglio dire, cioè ha risolto, cioè non mi sembra che abbia bisogno di consensi o di conferme del suo status intellettuale o di soldi, per esempio. Quindi. Ma io direi, ho addirittura il dubbio che quella frase sia stata estrapolata tanto per far sensazione. Ho anch'io questa impressione, però non mi lancerò in un'accusa della stampa italiana che ha bisogno di attirare disperatamente lettori. E quindi anche perché non credo che Eco abbia dato quel peso a quella battuta, che ha lo stesso peso mentre lui la diceva che ha avuto poi come risonanza, cioè è stata bombardata poi. Ma non so, io mi posso immaginare anche Eco in bagno che sta facendo la pipì e di fianco un giornalista che sta facendo la pipì assieme a lui dice questa cosa, ma magari stava canticchiando una canzone, magari al testo di una canzone il giornalista lo sente e dice cacchio che scoop, però come dire non... può essere successo anche questo, nel senso non lo sappiamo, però il giornalista può dire ehi l'ha detto. Beh, ecco. È un punto di vista. E poi è bello fare cultura in questa maniera, pensando a Eco che fa la pipì. Vespasiani. Esatto. ai Vespasiani, poi qui quanto a arredo urbano con della grande storia, poi qui abbiamo a Torino abbiamo anche i Tourette, che invece sono le fontanelle, c'è anche una battaglia, le fontanelle a forma di toro, so che sono cose che voi no, milanesi mi piace, non potete mi piace capire. La fontanella a forma di toro mi sembra raffinata. Sono in giro per Torino e... L'acqua da dove esce? Dalle narici del toro o dalla bocca del toro? Dalla bocca, credo. Filippo, che è più torinese di me, può confermare. Esatto. E no, c'è stata anche una bella battaglia, viva i Tourette, li hanno censiti. Cose che a Torino succedono e voi Cioè impazzite per questa cosa? Ma impazziamo! Sì, cioè vi crea una specie, la sindrome di Tourette, insomma. Adesso ti faccio mandare la canzone, perché questa era troppo brutta, non so proseguire. Vabbè, non riesco a trattenermi. Esatto. Andiamo in ordine con la scaletta, quindi ascoltiamo un pezzo del 1991 degli Shaman, che è Moving Mountain, dall'album, credo, Intact, sì, perché siamo al 1991. Ma non ascolteremo sempre cose così vecchie, questo è solo un tuffo nel passato quasi remoto, quando, come dire, c'erano ancora i rave, che mi mancano come un calcio nelle palle. E sono nuvolette, torna in onda dopo una pausa musicale che farà storcere il naso a un ascoltatore fedele, una coppia di ascoltatori fedeli di questo programma, che non dico chi sono, che probabilmente ci stanno guardando in streaming, ecco. Quantomeno una delle due persone è quella a cui devo la mia cultura musicale, che purtroppo non arriva a queste cose qua, boh, gusti. Beh, questo però era un club remix, in realtà la canzone, come non dire, era... aveva anche una parte cantata, però va bene, c'era questa versione qui. L'importante è che ci siano tanti suoni elettronici che fanno bene. Ah sì? Sì, assolutamente. E fanno bene a cosa? A rincoglionire, non lo so, dipende da quanto ascolti a lungo questa canzone. No, dipende, da ballare non è male. Ok, fino a 30 secondi fa sembrava che fosse una battuta a favore dell'elettronico, invece mi metti dell'elettronico e poi lo critico. No, beh, ma è bellissimo essere contraddittori, cioè potresti farmi una domanda e io potrei rispondere sì, no, cioè, capisci? Ok, allora ti faccio fare outing, come sto facendo fare outing, vai, a tanti qui. Vai, vai. Adriano Barone, tu sei un nerd? Sì, no. Visto? Cioè, non c'è quale delle due? Quale delle due? Ma sono veri entrambi, sì, nel senso no. Che sai, quando ero giovane, nel senso che comunque la mia età anagrafica non è, diciamo che vado un po' sopra i 20 anni, okay. quando negli anni 90, così ci collochiamo in un certo modo, essere nerd, per quanto mi riguardava, era un modo un po' per sfuggire alla cultura mainstream, quando la cultura mainstream c'era, ed era un modo per cercare qualcosa che fosse un po' più di nicchia, qualcosa che fosse frutto di una ricerca personale. Poi, ma la domanda magari... più difficile di tutte, cos'era la cultura mainstream negli anni 90? Guarda, senz'altro prima di internet la musica pop era ascoltata da tutti. C'erano okay, alcuni MTV. Film che venivano. No, ma no. Senza andare nello specifico. No, MTV era già una nicchia, a suo modo. MTV era già una nicchia, però ti dico che comunque al certo tipo di musica, un certo tipo di film, un certo tipo di serie TV, c'era veramente il concetto che le guardavano tutti, l'ascoltavano tutti. Okay. Quindi andare a cercare qualcosa che invece fosse conosciuto da meno persone era un modo, appunto, se vuoi, sfigato di affermare la propria personalità, affermare tramite, come dire, l'espressione di un gusto che fosse più particolare. Okay. Era anche un modo di essere, tentare di essere un po' snob. Però comunque una ricerca c'era, motivata bene, con buone o cattive motivazioni, ma c'era. Adesso mi sembra che dire di essere nerd sia una cosa, sia il nuovo mainstream è l'essere nerd, però vedo che è un nerdismo superficiale, cioè sono sempre gli stessi franchise in croce, Star Trek, Star Wars, i supereroi DC e Marvel, per me era un'altra cosa, insomma. Quindi trovo che sia anche la figura di nerd che è stata diffusa da Big Bang Theory, se quelli sono nerd e io sono contemporaneamente Bruce Wayne e Peter Parker, cioè non è che basta essere affezionati a una serie TV, a un paio di franchise, a qualche supereroe per poter dire di essere nerd. Questo perlomeno nella mia opinione, ma vedo che comunque il discorso è cambiato il giorno d'oggi, quindi va bene. Quindi forse quando lo ero, però non lo sono più. Quando ti sei accorto che la cultura nerd stava diventando la cultura di massa? Guarda, Big Bang Theory è stato un brutto segno. I film di supereroi credo che siano stati l'altro segnale, e poi comunque la tendenza Hollywood di puntare sui franchise, quindi continui reboot e sequel eccetera eccetera, per cui sai, quando prima Star Trek era una cosa da sfigati perché guardami una serie di fantascienza con gente in pigiama, e poi comunque diventano degli ultra successi commerciali dove ci sono dei bei ragazzi figosi sempre in pigiama, però che comunque cercano di... Ma pigiama più figli, non li puoi più chiamare pigiama? No, beh, ma sono pigiami, cioè nel senso, io non ho nulla contro il pigiama è una cosa nobile e comoda. Però, come dire, quello che c'è dentro adesso è più fico, no? È più giovane, è più appealing, è più cool, eccetera, eccetera. Quindi... Ma negli anni 60 e 70, Leonard Nimoy piaceva alle donne, cioè Ma a me piaceva anche prima, poco prima Maurice era un bel uomo. Poi sì, piaceva alle donne, ma poi si creavano anche tantissimi fenomeni particolari come le slash fiction, no? In cui le fan scrivevano queste fiction omoerotiche. Entro la fine della puntata parleremo del dino porn, ti rendi conto? Spero di no, però comunque, come dire, adesso tu spieghi cos'era la slash fiction. La slash fiction, adesso chiunque si ha un tratti oscuri della cultura pop che io speravo di non toccare mai con questa trasmissione. Ma in realtà, come dire, molto divertente la slash fiction. Poi senz'altro la definizione che darò mi farà crocifiggere. Mi ha martellato su un piede quando ho invitato Adriano Barrone in trasmissione. Perché ti faccio parlare di cose. No, vabbè, ma non andiamo era sempre un programma sul mainstream. Serio. Certo, senz'altro. No, comunque ci sono, come dire, fan di alcuni, principalmente serie TV, ma possono essere fumetti o libri, eccetera, in cui ci sono dei personaggi maschili che hanno un legame molto forte e quindi si immaginano storie d'amore. Spesso con, come dire, con esiti erotici tra questi personaggi maschili. Quindi, come dire, se non ricordo male, chi viene prima della slash è l'attivo e poi il passivo. Mi ricordo... c'è anche quel tipo di classificazione. Sì, sì, sì. Spock mi sembra che fosse attivo nei confronti di Kirk. Che è una cosa. Poi, sai, ci sono quelle divertentissime. Per cui non lo so, anche i due fratelli di Supernatural hanno dato stura a una serie di slash fiction incestuose. Poi c'è un sottogenere in cui c'è il maschio che resta incinto. Insomma, è un mondo straordinario, cioè nel senso non lo butterei via così. Sì, è un mercato come un altro. No, non è neanche un mercato, perché comunque non c'è un intento commerciale, proprio un modo da parte del fan di appropriarsi della serie aggiungendogli qualcosa che viene da sé. Poi sì, sai, sì, dalle fanfiction nascono cose strane. Twilight è stata per anni il successo editoriale mondiale, che da soli i libri di Twilight coprivano il 27% dell'editoria mondiale, una cosa straordinaria o terribile, secondo i punti di vista. E poi il libro che è stato il grande bestseller subito dopo è stato 50 sfumature di grigio, che era una fanfiction di Sadomaso, cioè, si fa per dire. Sì, a 16 anni facevo cose un po' più hard di quello che ci sono in 50 sfumature, ma sì, era una fanfiction di Twilight. Quindi sai, a volte succedono queste cose. Se sia un bene o un male non lo so, però sinceramente fare il lamentoso ai vecchi tempi. E se a qualcuno fosse sfuggito, solo visto che stiamo parlando, siamo entrati in fase iper nerd, fanfiction di per sé è semplicemente il racconto scritto dal fan. Esatto, non ufficiale, non autorizzato. È un fenomeno che ha fatto esplodere, perché lo puoi pubblicare su internet. Esatto, prima c'erano le fanzine fotocopiate, ma adesso è meraviglioso. Puoi scriverlo, lo posti. Poi sai, ci sono alcuni proprietari, alcuni franchise che sono un po' più, si arrabbiano un po' più di altri, quindi chiedono di ritirare alcune cose, ma fondamentalmente poi ci si è resi conto che è comunque un modo di promozione da parte di alcuni fan hardcore, quindi perché togliere il divertimento. Credo che rientri poi nel fair use del diritto d'autore americano. Secondo me è una zona d'ombra, però non c'è profitto, quindi tutto sommato si però può fare. Però se pensi oramai cose come How It Should Have Ended, che sono clip di animazione che trovi su YouTube, quello è straordinario, mi fa morire da ridere, di per sé utilizzano nomi, sono parodie, però in cui vengono utilizzati i nomi dei personaggi. No, credo che li paghino i diritti. Per chi non lo sapesse, How It Should Have Ended, che vuol dire come doveva, come sarebbe finire. Esatto, è una serie su YouTube in cui molto spesso ci sono Superman e Batman al bar, con Superman che fa delle domande a Batman e la risposta a quasi ogni domanda che viene fatta a Batman è Because I'm Batman. Esatto, fondamentalmente è una serie molto intelligente, perché analizza dei film appunto mainstream ormai che escono al cinema, film di supereroi o di fantascienza fondamentalmente, e dicendo come sarebbe dovuto finire, in realtà fa una cosa molto scaltra, cioè fa notare dei buchi di logica pazzeschi delle sceneggiature. Quindi è anche un modo simpatico per ridere di queste enormi cazzate che ormai passano nelle sceneggiature hollywoodiane, cosa che tipo fino agli anni 90 non sarebbero passate, ma sono cambiati i tempi. Anche qui non lo dico né bene né male, ma è chiaro che il modo di scrivere una sceneggiatura hollywoodiana oggi è cambiato profondamente. Su questo magari ci ritorniamo, però era interessante come oramai la cultura pop genera le sue stesse parodie e il veicolo principale è internet. Sì, ma poi sai, non abbiamo niente da fare, cioè viviamo delle vite che fondamentalmente sono o lavoro, studio o internet, quindi è ovvio che su internet è la naturale prosecuzione di tutto. Molti hobby sono, come dire, fruizione di un qualcosa da uno schermo, ma sempre meno la TV, è sempre più uno schermo di computer, a patto che tu abbia la TV che si può collegare a internet, però siamo sempre lì, quindi fondamentalmente ci sta che sia il luogo dove fluisce, rimbalza, si mescola tutto. Poi è chiaro che tutto è diventato di ultra nicchia, e quindi le cose veramente di successo sono le cose che hanno un pompaggio marketing molto forte, perché l'offerta ormai è sterminata. Ma chiaramente, anche se uno potesse vivere 800 anni, fruire di tutti i contenuti potenzialmente interessanti di internet, non ti basta farlo come 24 ore su 24 in tre reincarnazioni. È diventato più costoso, mostruosamente più costoso, creare un contenuto di massa, giusto? Sì, sì, fondamentalmente sì, perché cioè, è ovvio che tu puoi creare un contenuto, buttarlo su internet e per una serie di circostanze che può essere capacità di marketing personale, una buona base di conoscenze che condividono il contenuto, puoi anche diventare, come dire, puoi anche uscire dalla massa, eccetera. Però fondamentalmente per creare dei fenomeni ci vuole tanta promozione, e per fare tanta promozione ci vogliono un sacco di soldi. Cioè, pensa comunque ai film, ai blockbuster hollywoodiani, oltre al budget che già è mostruoso, perché ormai si viaggia circa sui 200 milioni di dollari per i cosiddetti per i blockbuster, appunto. Aggiungici una bella percentuale che viene dedicata al marketing, e del marketing che sia che è globale. Oramai metà del budget quasi questa è marketing. Questa è una cifra che non arriverei così tanto, perché comunque, cioè, se spendi 200 milioni di dollari per un film e 200 milioni per, sì, okay, per il marketing, secondo me è tanto. Però comunque stiamo parlando di cifre ingenti, e che è chiaro che puoi concentrare soltanto su poche uscite all'anno. Certo. Tendenzialmente su quei film che arrivano anche in Cina, visto che non abbiamo si un'interferenza rinunciare di cellulare, quindi io sto suonando il cellulare a te. Ah sì, dici, è una cosa emozionante. Ero convinto di averlo spento. No, il mio è spento. Quindi... Ok, allora sono io che ricevo delle boiate. Esatto. Su, no, tra l'altro vedo su messaggi. WhatsApp, in realtà, sarebbero anche cose utili per essere veramente social, ma noi non siamo veramente social perché siamo old, e quindi okay, stiamo assolutamente isolati. Siamo vintage. Siamo vintage. Old, sì. Questo è interessante. Beh, io volentieri, tra i Led Zeppelin e Skrillex, mille volte i Led Zeppelin, quindi certo, viva il vintage. E ti faccio annunciare, visto che siamo andati nel discorso musicale, ti faccio annunciare la seconda canzone. Ma chissà in sequenza quale ci sarà. Ci saranno i Gogol Bordello? Sì, dai, ci sono i Gogol Bordello con forse So Victory, l'album è Super Taranta del 2007. Ok. Ok, yeah. E che botta di adolescenza tardiva, Adriano, sei ancora un adolescente di fatto, quindi non per dici? Te non è un problema. Vabbè, sì, insomma, sì, Gogol Bordello, sì, dici che fanno adolescente, vabbè, scusa se ti abbiamo disturbato mentre whatsappavi comunque durante la pausa col programma, cioè sei il conduttore, vabbè, prossima dai volta, ma perché una testata contro il muro invece di invitare Adriano Baroni in trasmissione? Sì, in effetti il tuo masochismo è finito, tra una cosa quello pazzesca che volevo farmi del male invitare te in trasmissione. Esatto, go-kart, no, non so. Buttare il go-kart, non drogarti. Go-kart, non so, tagliare dei cespugli a forma di animale, non so, qualcosa così. Passare il tempo con in i blocchi di ghiaccio, come ricomincio da capo. In questa stagione potrebbe essere un po' difficile. Esatto, però, infatti, cioè, quello sarebbe stato veramente una sfida. Cioè, d'estate fare il pinguino, però mentre scolpivi ti si scioglieva tra le mani. Una performance, cioè, come dire, l'arte che non soldi dura. Qualcosa di talmente inutile che probabilmente. Ma sono convinto che l'abbiano già fatto, sai? Sì, sì, sì, sì. Quanto invece a mercato, cose del genere, il queste mercato amenità, parlavamo di scrittura, e tu dicevi che è cambiato il modo di scrivere i blockbuster hollywoodiani. Sì, allora, blockbuster sono di per sé oramai il film, il cinema commerciale sono i franchise, quindi da Star Wars a Star Trek, come sia stato possibile portare i truzzi al cinema a vedere Star Trek, non l'ho mai capito, però io ho visto i truzzi al cinema a vedere lo Star Trek di Abrams. Quindi... Se ci metti delle gnocche, degli gnocchi, comunque la gente al cinema ci va. Ci metti delle esplosioni, degli effetti speciali, comunque la gente ci va. Guarda che comunque la fruizione di un film al cinema... Che poi bisognerebbe definire la differenza tra nerd e truzzo, però vabbè, pazienza. No, sono due cose profondamente diverse. No, infatti... Cioè io sono un nerd truzzo perché sono di Raw, però sono veramente un'eccezione. Comunque il concetto è che... Che di per sé probabilmente è solo questione di scelta di ciò che fruisci. Dipende anche da che età cominci a metterti il pacchetto di sigarette nella maglietta. Sociologico, comunque, andiamo esatto al di fuori della cultura. Esatto, pop. No, comunque ti dico, secondo me non è che sia un problema eccessivo, cioè fai una buona campagna marketing, figone e figoni, esplosioni, effetti speciali, e poi ti ripeto, guarda che l'utente, non voglio dire l'utente medio, ma a parte del pubblico, sicuramente va al cinema senza capire quello che sta vedendo. Io mi ricorderò sempre, questa cosa te l'avevo già detta, la prima trasmissione, ma vale la pena ripeterla perché è eccezionale, quando c'era Super 8 di Abrams, mi ricordo che prima del film, di fianco a me, una persona chiese un'altra: ma perché si chiama Super 8? E l'altro: non lo so. E tu dici: va bene. Poi durante la pausa del film ti chiedi in che anno si è ambientato e dici: ma c'è il poster del, come dire, del secondo film di Guerre Stellari, dell'Impero colpisce ancora, e dici: sarà senz'altro dopo l'81. E vedi le persone di fianco a te che stupite ti fanno: ah, ma non è ambientato il giorno d'oggi? E tu, per cercare di fargli capire con una domanda semplice: hai visto un cellulare? Ma soprattutto, hai visto le capigliature? Hai visto i vestiti? Cioè, non si erano resi conto che questo film fosse ambientato negli anni 80. Per loro è un film contemporaneo. Quindi ti dico, se il livello di attenzione è questo, ci sta che le storie non vengano costruite con un rigore particolare, che non ci sia logica in un passaggio tra una scena e l'altra. Questo perché? Forse perché il pubblico è distratto, forse c'entra internet, non lo so, non voglio fare facili analisi anche perché non è il mio settore, però senz'altro si è capito che per mantenere viva l'attenzione del pubblico per 2 ore devi creare dei fortissimi momenti emotivi, uno dopo l'altro, pam pam pam pam pam, e poi il fatto che ci sia una logica che faccia passare dal fatto A al fatto B, al fatto B al fatto C, non è così importante, anche perché poi appunto molto pubblico non capisce un cazzo di quello che guarda, quindi chi se ne frega, basta che ci siano gnocchi, gnocchi ed esplosioni, possibilmente gnocchi gnocchi vestiti zarri. Infatti Fast and Furious secondo me è eccezionale da questo punto di vista, che è stato un successo di Fast and Furious 7, se un settimo capitolo di un franchise, già di per settimo sé... capitolo di un franchise che è nato da una moda del momento che era il tuning, no? E che comunque dal capitolo 4 è diventato una cosa eccezionale, a parte il fatto che comunque Fast and Furious non è assolutamente da sottovalutare, perché il primo aveva la stessa trama di Point Break della Bigelow, se stai a vedere, perché la storia, okay, del poliziotto infiltrato che poi si affezionava, come dire, al sottobosco criminale in cui si infiltrava e infatti poi rinunciava al suo ruolo di tutore della legge. La trama uguale, fantastico. Esatto. Poi dal quarto in poi diventa una specie di, non so, di Ocean's Eleven, no? Il concetto è fare dei colpi molto complicati tramite l'utilizzo delle automobili. Dal quarto secondo me diventa anche un franchise di supereroi, perché le leggi della fisica vengono violate. Quindi io lo dico a tutti, infatti chi mi conosce già si sarà ovviamente rotto le balle di questa mia teoria, comunque i protagonisti di Fast and Furious sono supereroi i cui superpoteri si attivano quando sono alla guida di un mezzo, e infatti riescono a violare le leggi della fisica. Se lo guardi così ha tutto senso, è eccezionale. Oppure siamo noi che cerchiamo dei sensi o delle spiegazioni in più in qualcosa che viene fruito in maniera più distratta. Allora, senz'altro c'è una parte di pubblico che fruisce in maniera più distratta, ma chi fa certi blockbuster tipo Fast and Furious, sapendo benissimo che c'è una parte di pubblico che comunque chiaramente è contento di vedersi le botte, le auto che esplodono, eccetera, eccetera, però c'è una cura nel differenziare, cioè, un capitolo dall'altro. Quando qualcuno mi dice i Fast and Furious sono tutti uguali, no, una minchiata pazzesca. Cioè, è evidente che c'è un taglio particolare diverso, una ricerca dell'escalation anche delle scene action, quelle potenti, una ricerca del fare qualcosa che non è stato già fatto. Cioè, voglio dire, se tu fai la testata volante di Dominic Toretto che conclude il combattimento del sesto, dalla testata volante, meraviglioso, cioè c'è uno grossissimo, lui salta e al volo pam, testata in fronte, meraviglioso, mica viene rifatta, si fa una volta sola perché dice: ok, questa fatta, ora ne facciamo un'altra, tipo combattimento con Jason Statham in cui si usano gli attrezzi per riparare l'auto, è fantastico. Ok, e di tutto questo è colpa di George Lucas, di Sergio Leone o di Jackie Chan? Anzi, povero Jackie Bruce, Chan. O di Bruce Lee prima ancora? No, penso no, Bruce o Lee. Di James Bond. Il problema è che vai ancora, in realtà se vai indietro l'exploitation di Bruce Lee, vai indietro a James Bond. Allora, diciamocelo chiaramente, sembriamo dei cretini, però poi alla fine quando si tirano fuori gli alberi genealogici della cultura pop siamo senz'altro cretini. Il concetto è che l'idea di serialità è sempre esistita, cioè al cinema quando ancora non c'era la TV c'erano, okay, i serial, quindi, okay, personaggi pulp venivano portati in quelli che non erano nient'altro che telefilm sul grande schermo. Parliamo, adesso dirò una stupidata a livello cronologico, ma comunque anni 30-40, se dico una stupidata chiedo perdono, comunque prima della seconda guerra mondiale. Poi voglio e parliamo dire, di Flash Gordon, che guarda caso era un personaggio dei fumetti, per esempio. Oltre al fatto che appunto c'erano anche i serial radiofonici quando, esatto, non c'erano i soldi per portarli al cinema. Però il concetto è che è solo con la TV che poi la serialità si sposta sul piccolo schermo, eccetera. Poi quando si, come dire, adesso il periodo non riesco a individuarlo particolarmente, ma quando poi un film aveva successo, i seguiti si sono sempre fatti, e anche di film che non considereremo delle puttanate fatte solo per fare soldi. Il Padrino, Non mi sento di dire che sia un film che non abbia un valore nella storia del cinema, quindi in realtà ci sta, perché come diceva De Sica, forse non diceva De Sica, qualcuno l'ha detto, il cinema è un'industria che a volte produce arte, ma prima è un'industria, prima bisogna pensare al cash. Chiaramente il pubblico, come dire, prima magari recuperava un film con l'home video, con la morte dell'home video adesso è a disposizione pochissimo tempo per dare una botta che dura tipo 2 settimane, perché poi l'attenzione sul film va a scemare, e questa botta devi darla in tutto il mondo se vuoi far ritornare i soldi, quindi è una cosa difficilissima, e per far sì che vada bene in tutto il mondo fai un prodotto che va bene per tutte le fasce d'età e per tutte, come dire, per tutti gli stati del mondo, in particolare, non so, mercati che venivano ignorati fino all'inizio degli anni zero ma che adesso sono fondamentali, come dico sempre, la Cina, poi anche Sud Corea, Giappone, eccetera, però la Cina oggi, senza gli incassi cinesi, i conti non tornano, o meglio, potrebbero tornare, ma quando consideri che Transformers 4 ha fatto più in Cina che negli Stati Uniti, 250 milioni negli Stati Uniti, 300 in Cina, se dico una stupidata, capisci che le logiche si sono spostate. Fino a un certo periodo storico Hollywood bastava farsi gli incassi americani e tutto quello che resta non di più, adesso assolutamente no, adesso devono tenere sotto controllo tutto lo scacchiere globale, non è facile, e per arrivare a tutti appunto devi fare i prodotti che vadano bene a tutti, dai bimbi alle famiglie, uomini, donne, che siano italiani, americani, cinesi, coreani, eccetera eccetera eccetera, è complesso. In quindi questo, capisco. Beh, riesci casino. A farmi spuntare almeno 15 domande durante il tuo discorso? Mi sono venuto talmente almeno 15 domande, la quindicesima, l'ultima. Parti dall'ultima. È la differenziazione dal fatto che in tutto questo scenario globale, in realtà ci sono diversi campioni di incasso per ogni regione, in realtà per ogni nazione, per ogni stato. Dici? Cioè? Dell'ultima stagione, I Guardiani della Galassia è stato il campione di incasso assoluto per gli Stati Uniti solo. In che senso? Cioè, nel senso, campione di incassi riferito a cosa? Alla stagione cinematografica? Esatto, relativamente alla stagione cinematografica. Sì, però tanto chi se ne frega, nel senso che guardi gli incassi globali, no? Quindi nel senso, anche no, se però fa secondo un qual... me ti dice anche qualcosa parlando di pubblici diversi, che cosa fa successo in determinato territorio. Quindi noi siamo nerd, figli della cultura americana. Non lo so, a te è piaciuto I Guardiani della Galassia? È un film molto divertente, ma io i film Marvel non li considero propriamente dei film, cioè i film Marvel, meraviglioso, I Guardiani della Galassia, sì, è anche un film però leggerino, cioè dopo che l'hai visto ti sei fatto tante risate, io l'ho dici, visto due okay, volte al cinema, ci ho portato anche visto, Maurizio Manzieri, anch'io l'ho visto due volte, uno dei più importanti illustratori, e dopo dici ok, una simpatica sciocchezzuola, nel senso come dire, è un l'universo Marvel, appunto, non sono film, è una serie Guardiani della Galassia di Age of Ultron? Cioè meglio Age of Ultron dei Guardiani della Galassia? No, meglio Guardiani della Galassia perché è scritto in maniera più equilibrata. Age of Ultron ha dei grossi problemi di sceneggiatura che è anticlimatica e poi c'era una sceneggiatura. No, c'era una sceneggiatura che evidentemente un film era più lungo, l'ha detto anche Guido, doveva durare 3 ore, dura 2 ore e 10, mancano evidentemente dei pezzi, voglio dire, e poi ripeto, la struttura anticlimatica c'è, nel senso che il primo Vendicatori era proprio da questo punto di vista perfetto, cioè partiva con un, come dire, eroi singoli, scontri tra di loro, creazione del gruppo, mega scontro finale, perfetto, torna. Qui invece ci sono, direi che il primo problema è proprio il problema che avranno poi anche i futuri film Marvel, c'è troppa gente, esatto, e per dargli abbastanza screen time bisogna allargare i tempi. Per essere seri, 30 secondi, si sente il peso del fatto che oramai la Marvel cinematografica sia un'industria nella stessa industria, e quindi tutto ciò che esiste adesso deve prescindere, non può prescindere da ciò che è stato prima e quello che sarà dopo. Sono d'accordo, cioè nel senso, una delle cose che più io personalmente, magari qualcuno no, però che ho trovato fastidioso di Avengers Age of Ultron era del tipo, ricordatevi che c'è una serie TV dedicata a Agent Carter, guardate che c'è il prossimo film di Thor in cui succede questo, non mi interessa, cioè in queste due ore raccontami una storia e basta, non mi dare il colpettino di gomito e dire i prossimi li guardi, i prossimi li guardo, se continui non li guardo più, però basta colpettini di gomito. E questo potrebbe marcare la distinzione, il fatto che a questa fidelizzazione estrema all'interno dell'intero corpus di narrazione Marvel, lo spettatore un po' più distratto ci casca, noi ci stiamo stufando, noi nerd ci stiamo stufando. Bah, io sono già stufo da tempo, però devo dire la verità, secondo me parla il box office, cioè appunto io da lettore Marvel di lunga data non faccio testo, cioè io non riesco mai a vedere un film Marvel per esempio prescindendo dai fumetti, me li ricordo okay. Le storie originali, quindi non va bene, dovrei capire come essere nella testa di uno che quei personaggi non li conosce li veda per la prima volta, certo. Però io guardo il box office in questo caso che è l'unico indicatore vagamente oggettivo di quello che può essere un film, il secondo film dei Vendicatori è incassato meno del primo. Quindi secondo me, non dico che il declino sia già iniziato, perché poi ci saranno i tentativi. Ant-Man è la prima volta che vedi il supereroe microscopico, magari piace. O il Doctor Strange fa vedere la magia, o il Black Panther fa vedere un côté esotico che potrebbe piacere. Quasi da hanno il multiverso intorno, però partono quasi da sì, zero. Sì, poi ogni e perché ogni volta devi reintrodurre personaggi. Il problema è già in Age of Ultron era un casino, perché esatto. Se cioè già a me sembravano troppi. Onestamente non riesco a pensare cosa potrebbe essere. Bollone, credo che tu abbia smontato la sedia. Ah, vabbè, non importa, pazienza. Non sono ancora caduto. E Infinity War, secondo me, sarà un puttanaio pazzesco. Sì, sì. Quindi non dico che lo attendo visto particolarmente. Visto che parliamo francese, c'è da sperare che non diventi una puttanata. Ma sai, secondo me un film Marvel esula un po' dall'essere una puttanata. Nel Filippo senso Mazzarella che dice giustamente che esce Avengers Age of Ultron, non ha più bisogno della critica, esautora la stessa critica, perché cosa puoi criticare a parte dire sì, chi se ne frega? Sì, nel senso, cioè, hanno successo il botteghino, va bene così. Poi è chiaro che ci sono autori che hanno più criterio, più coscienza, e quindi ti creano un buon prodotto di entertainment. Però voglio dire, sono sempre collocati in quella casella lì. Poi io non mi vergogno di dire che mi è piaciuto un casino il primo Iron Man, il secondo Capitan America, I Guardiani della Galassia, ripeto, mi è piaciuto molto appena l'ho visto, poi mi ha lasciato meno magari degli altri, però questi sono gusti personali, chi se ne frega. Il primo Vendicatori, visto che io non sono appassionato di sport, credo di aver capito per la prima volta il concetto di tifo. Quando c'è Hulk che blocca un'astronave con una mano, devo dire che ammetto di aver gridato a tutte le, non mi ricordo quante volte l'ho visto, ma ho gridato tutte le volte. Pensa che a me ha annoiato il primo Vendicatori. Vabbè, ma qui siamo nel campo del gusto personale. Esatto. Non stiamo, no, cioè, nel infatti senso, dire mi è piaciuto o non mi è piaciuto, o li analizziamo con dei criteri vagamente oggettivi. No, tipo, ma infatti sai, qualità degli effetti speciali piuttosto che qualità della sceneggiatura, qualità della regia. Altrimenti, sai, sul gusto personale c'è cioè quello che ha il colore che mi piace, quell'altro no, quello è biondo, quello è moro, quello è più spiritoso. Cioè, Tony Stark è un grande personaggio, ma secondo me Iron Man 2 e Iron Man 3 erano dei film assolutamente inutili. Però, sai, uno va a vedere Robert Downey Jr. che fa il coglione. Tutto sommato sono contento, quindi sai, dipende dalle tue aspettative. Uno può avere l'asticella alta, bassa, virata su certe cose. Ok, la mia aspettativa in questo momento è che tu annunci la terza canzone. La tua, ok. cosa che avevamo? Avevamo gli Asian Dub Foundation, l'album era Pancara del 2008 e questa è Burning Fans. Se è andato tutto bene, è andato vai tutto bene. Ultimo quarto di Sono solo nuvolette, oggi praticamente condotta da Adriano Barone, in cui yeah faccio veramente difficoltà a insinuarmi in mezzo ai monologhi, ma stai zitto Adriano. Taci! Hai anche sventolato una scritta alla webcam, di che si trattava? Gendo was right, sai, il papà di Shinji, che secondo me aveva ragione lui in Evangelion, ma il mio parere è minoritario. Ieri era come dire la data in cui avvenivano i fatti del primo episodio di Evangelion, quindi il terzo angelo ieri avrebbe dovuto attaccare Tokyo, ma sono contento che sono da un'altra parte, insomma, cioè nel senso era pericoloso. E Evangelion, se Ritorno al Futuro oramai è mainstream nerd come supereroi, Evangelion dove lo classifichi? No, Evangelion è un caso particolarissimo, nel senso che comunque in Giappone ha avuto un impatto che non ci possiamo immaginare, e secondo me, come dire, è conosciuto come personaggi, come iconicità, però sono convinto che quelli che conoscono i personaggi non tutti abbiano visto la serie, uno, e poi comunque l'impatto che ha avuto sulla cultura giapponese, sui nerd o otaku di una certa età, quelli che avevano, non so, che erano adolescenti negli anni 90, è impensabile. All'estero è rimasta sempre una nicchia. Poi, per carità, ci sta che i film The Rebuild vengano mandati un paio di serate al cinema, però appunto reggono un paio di serate, non sono film che possono andare al cinema e reggere più di tanto. Ma va bene così, cioè essere fan di Evangelion è ancora una delle cose che ti permette di dire ok, distinguiamo un po' la cacca dalla cioccolata. Sta diventando un po'... si stanno rimodulando forme di fruizione, per esempio questa della proiezione di un film al cinema, ma solo per due serate, conservi l'evento. Sì, sì, sì, sì, è importante, perché comunque sai, cosa sto evidenziatore di così interessante? Non lo so, ci sono scritte le cose in oro, io sono affascinato dall'oro, come noti anche la mia molto sobria maglietta degli ideogrammi in rosso come dire, rosso metallico e oro, quindi mi affascina tutto ciò. Dicevi... No, dicevamo che sì, per creare... ho trovato il modo, ti interrompo facendoti domande che non c'entrano assolutamente una figa. Esatto, se mi parli l'evidenziatore saresti ipnotizzato. No, comunque si è perso un po' tramite internet, anche qui non è una critica, sono cambiate le cose, vaffanculo, il concetto dell'evento, cioè se usciva un film al cinema te lo guardavi al cinema, non lo riuscivi a recuperare subito dopo in un video, quindi se volevi andartelo a vedere dovevi andarlo a vedere in quel periodo, se ne parlava in quel periodo. Poi c'è stato forse questo fenomeno spostato sulle serie TV e adesso che siamo arrivati a Netflix che ti manda un'intera stagione contemporaneamente, quindi si fa binge watching non solo delle serie Netflix ma anche di altre serie, è chiaro che è difficile capire qual è il momento giusto in cui puoi condividere i tuoi pareri su un'eventuale serie, perché appunto esce Devil, chi è che è stato a casa da lavoro per guardarsi tutti e 13 episodi una volta, chi se l'è visto centellinato, ne parli magari sui social, ah non me ne parlare, sono arrivato solo fino al terzo, ma io l'ho finito eccetera, quindi cosa fai? Metti un indicatore, iscrivetevi al gruppo quando avete finito di vedere la serie. Diciamo che questa cosa qui è un po' problematica. Poi come dire, magari in un ambiente ultra nerd in cui le cose si scaricano, probabilmente sì, cioè quando c'è la trasmissione americana o inglese la si guarda tipo il giorno dopo e più o meno una settimana di discussione c'è, però sì, se il binge watching diventerà la norma sarà abbastanza complicato capire quando è il momento giusto di parlare di una serie piuttosto che di altro. Coi film il problema non c'è, anzi il tempo è diventato pochissimo, una settimana parliamone, oddio c'è già un'altra novità, quindi cambiamento della fruizione. Ho fatto una smorfia così ti sei distratto e almeno sì funziona, bravo. Entro la fine della trasmissione avrò capito come riuscire a parlare anch'io nella mia trasmissione. Il discorso di abbiamo 5-7 minuti, cosa possiamo farcela? Volevo farti una domanda seria, ma no, ti rispondo seriamente, lo giuro. Ma no, ma perché devo farti una domanda seria? Ah, non lo so. Ma la non trasmissione c'è più motivo. È tua del resto. Sì, infatti, tanto oramai non può andare peggio di così. Non temere, Fulvio. Non può andare peggio di così. E la fruizione, il no, solo per tradurre ai non iper a chi non parla il nostro linguaggio, quello che hai appena detto sta cambiando. Allora, le serie televisive di per sé hanno costruivano delle nicchie, i fan, o comunque costruivano una comunità. Sì, giusto? Sì, questo sì. Anche negli anni 60 presumibilmente, anche quando andavano in televisione, sulle televisioni generaliste. Penso che la prima grande comunità sia stata proprio di Star Trek, che comunque durò 3 stagioni, poi divenne una serie, non andò benissimo la prima e seconda Star Trek, però diventò una serie di culto per gli anni 70 con la cosiddetta syndication, quindi con le continue ritrasmissioni su emittenti magari anche non a scala nazionale, e poi appunto ci fu un culto che crebbe fino a che non si ritornò a ridare vita alla saga con i film cinematografici, poi con la nuova stagione, con la nuova serie TV, con Next Generation. Ma anche oggi comunque con la globalizzazione, sì, con la possibilità di guardare, legale o meno, parliamo solo di cose legali, ma comunque di una visione delle serie televisive nel momento, anche dall'Italia, nel momento in cui escono, sì, in patria, c'è questa sorta di community per cui si discute sei in, se stai guardando Game of Thrones, la stagione, adesso è appena finita la quinta stagione, sì. E se ne parli in questo momento. Potremmo spoilerare per chi non l'ha visto. Io sono fermo alla fine della terza, quindi ok, no, non se ne può. Ecco, sì. Tanto morirà qualcuno. Ma qual era la domanda? Qualcun altro. Sì, muore cercare di ricostruire in questo, da questo tuo monologo, il flusso di coscienza, sì, qualsiasi cosa sia, e il come sia cambiata la fruizione e come Netflix, che è un portale di per sé, però di per sé è un produttore di contenuti. Lo è diventato dopo. Cioè, Netflix adesso, anche Amazon produce le sue serie televisive, sì, stanno entrando sul mercato, quasi sempre americano, principalmente americano, anche se vende tutto il mondo, tutta una serie di entità che producono serie televisive. Sì, ma è cambiato, allora... ma è cambiato il concetto, perché prima il contenuto, quello che dovevi vendere alla serie TV, adesso invece Netflix ti offre un servizio e per farti comprare quel servizio ti dà un contenuto come accessorio per convincerti a fruire del servizio. Okay. È ribaltata la cosa. La nuova serie che... Sai che anche PS adesso ha prodotto una serie TV che tratta da Powers, okay, di Michael Bendix e Oeming. Quello fondamentalmente è un servizio accessorio per chi si abbona ai servizi online di PS. Cioè addirittura siamo al... Se volete c'è anche una serie TV. Come se volete? C'è un contenuto che viene proposto come un di più. figurati una serie TV. Poi Powers però mi sembra sia prodotta con due lire. È così diverso dal Nintendo che vendeva Super, che ti vendeva la, il NES con Super Mario Bros. O il Sega che ti, te lo vendeva perché volevi comprare Sonic e poi a quel punto lì ti eri comprato anche la, la, l'hardware, la console. Stiamo parlando di console, sto parlando di videogiochi da, da casa, anni 90. Allora, mi fai una domanda alla quale non so assolutamente rispondere, perché non sono mai stato un videogiocatore se non di picchiaduri e li scroccavo agli amici. Comunque, no, cioè, secondo me il discorso era che lì comunque, sì, la console era indispensabile, però poi erano i giochi che volevi vendere, non è che, ti, non è che uno comprava la console e poi rimaneva lì a guardarla. Ma in questo caso cerca Netflix, cerca di avere gli abbonamenti perché, tramite chi vuole guardarsi in esclusiva, in anteprima, House of Cards. Di sì, diciamo che non è che possono avere così tanti abbonamenti da un contenuto originale, è una delle tante leve che utilizzano perché la gente paghi quei 7-8 dollari al mese, che è una cifra comunque molto modesta, e si abbonino al, e si abbonino al servizio. Ma però quello... stiamo parlando di operatori economici, se non, non desse un ritorno non lo farebbero. Ah sì, chissà. Infatti una delle cose misteriose di Netflix è quanti, qual è il rating di queste serie TV, non si sa. Però il concetto è quello lì. Molti pensavano che i film indipendenti avrebbero trovato un nuovo spazio in, appunto, nei servizi tipo Netflix on demand, ma poi quando i, come dire, top manager sono stati intervistati hanno detto: noi i film tutto sommato non interessano perché sono one shot, non interessano, interessa la serialità perché così creiamo fidelizzazione del cliente. Signori, è chiaro quello che stanno cercando. E torniamo alla serialità, quindi, eh? Esatto, quindi ti dico, quello gli è quello che interessa. Gli stessi generi sono stati inventati per dare al lettore: ti è piaciuto questo e vuoi qualcos'altro con quelle caratteristiche, prendi qualcosa dello stesso genere letterario a monte. Sì, beh, quello sì, quello è un discorso che è nato anni e anni fa, quando è nata, come dire, la letteratura commerciale, quindi appunto se c'era un genere di riferimento poteva piacere. Le serie TV devo dire che sono uno degli ultimi momenti di scrittura originale che sono rimasti, appunto, rispetto a registi anche di peso che possono piacere o meno, però se consideri che J.J. Abrams fa prima Star Trek e poi Star Wars, regista di Monsters, non mi ricordo mai il nome, fa prima Monsters e poi fa Godzilla e poi fa Star Wars. Se vuoi raccontare qualcosa di tuo che non sia un franchise, tendenzialmente vai in TV. Vedi Soderbergh, che ha detto che non fa più film, ha fatto The Nick, che è una serie TV abbastanza inquietante perché è piena di gente sbudellata, sono chi, però è molto bella, però appunto se voleva raccontare cose sue è andato lì. Adesso Lynch l'hanno richiamato anche per Twin Peaks, no? Ma quello può fare, non un altro film, al massimo una serie TV. La stessa, un seguito, quindi anche lì franchise. Vabbè, signori, andrà così per qualche ventennio, ma almeno resistiamo. Quindi in questo momento il vero valore commerciale è ciò che esiste già e ha già una fan base, ha già un seguito. Esatto, però è vero che tramite internet qualcosa di nuovo si può costruire, cioè se pensi ai webcomics piuttosto che al fenomeno degli youtuber o di chi comunque crea dei contenuti online, a volte c'è un accumulo di massa critica sufficiente per cui tutto questo poi esce dal web e diventa qualcos'altro. Chiaramente sono eccezioni perché la produzione è vasta e sconfinata, come le reti. Fantastico, non so se qualcuno a parte noi due ha capito qualcosa di questa chiacchierata. Ma basta, è anche mainstream farsi capire, siamo criptici, che è una cosa molto bella. Giustamente. Siamo gli snob. Comunque è stato un terribile dispiacere avere qui in trasmissione Adriano Barone, un errore che non farò mai più. No, quando è che torni, che facciamo un'altra puntata monografica? Una magari cosa divertente che non farò mai più, diceva David Foster Wallace. Così per far vedere che anch'io le ho lette quelle stronzate e non mi piacciono. Ok, bene. Ci risentiamo sono uscite. Sì, dai, è il momento di chiudere. No, quando esce qualche novità a fumetti o speriamo in qualche altro media, ritorno, prometto. Ci sono coordinate spazio-temporali su cui ti si trova? Bah, tendenzialmente seguitemi su Twitter Adriano_Barone, l'amicizia su Facebook, se non siete gnocchi non ve la do, e che roba sessista che ho detto, e poi ho un sito internet che però aggiorno una volta ogni morte di Papa, quindi cioè se volete passateci, ma al momento è abbastanza inutile, giuro che ci rimetterò mano a breve. Okay. No, non è vero, non lo so quando, ci rimetterò mano. Vabbè, ne parliamo la prossima volta, se avrai rimesso mano. Esatto, sarà la prima domanda. Va bene. Grazie a tutti anche della pazienza. Sono solo Nuvolette, la puntata di oggi si conclude, sono le 16 spaccate, c'è ancora tempo per dire cliccate mi piace su Sono solo Nuvolette, cliccate mi piace su Radio Archimede, cliccate mi piace su Biblioteca Civica Multimediale Settimo Torinese. Grazie a Filippo in regia e niente, finiamo con un pezzo dubstep per fare finta che siamo giovani. Andiamo con Skrillex, fantastico. Dai, annuncia, vai. Skrillex, la conoscete tutti questa, buon ascolto, ciao a tutti, ciao.